come dai dentisti, abbiamo già preparato l'acqua, Parliamo da seduti o certo ci dobbiamo alzare? Ecco, hai evocato uno dei posti peggiori. No, come vuoi che facciamo? Parliamo da seduti o in piedi? Seduti? No, lo mettiamo giù perché se voglio aprire qui ho degli appunti. Sai, no? Facciamo una conversazione anche io, se devi aprire degli appunti. Ecco, allora io direi che possiamo iniziare, se vi accomodate un attimo, così partiamo con la nostra iniziativa, che avrà anche una ripresa su Facebook, quindi potrebbe anche essere rivista, vero Mauro? Mauro. Allora, intanto il mio compito è di dare il benvenuto a tutti voi, a tutte le signore e signori qui presenti e ai nostri ospiti, l'avvocato Arnaldo Lone, che conoscete, e Guido Margheri in qualità di presidente dell'ANPI. Questa iniziativa vuole commemorare chiaramente e celebrare la giornata della memoria che cade il 27 gennaio, ma che volevamo anticipare proprio per non così andare incontro a un overbooking di impegni, eventi che la città e anche la provincia organizzano in queste circostanze. Come ogni anno la biblioteca organizza degli eventi, aggiorna la propria bibliografia dedicata a questo tema, ma soprattutto, ecco, quest'anno ci faceva particolarmente piacere ospitare l'avvocato Arnaldo Lone, perché con lui c'è un legame particolare con la città da parte dell'avvocato e con la biblioteca provinciale Claudio Augusta, perché ve lo diremo poi più avanti, sono i due temi di questa serata. A me spetta così il compito molto piacevole di esprimere la gratitudine all'avvocato Lone per quello che ha fatto e fa e continua a fare, ed è un esempio di co-creazione della biblioteca. Cioè, la biblioteca è un essere vivente, è un organismo vivente, questo l'abbiamo spesso detto, perché cresce, non si spegne, e se cresce, cresce anche per merito degli utenti e anche delle persone che a vario titolo contribuiscono alla crescita della biblioteca. La biblioteca è un posto dove si può venire, informarsi, mantenersi aggiornati, conoscere e avere anche il tempo di elaborare e di metabolizzare le informazioni. È un po' più lento rispetto al social e alle situazioni e piattaforme digitali, però nello stesso tempo permette anche una riflessione e un approfondimento delle informazioni che vengono date attraverso i libri. E in questo senso l'avvocato Lohner da anni ci regala, nel vero senso della parola, i propri libri che ha raccolto durante il proprio percorso professionale o anche personale di ricerca. Mi fermo qui. Vi volevo semplicemente anche comunicare che gli appuntamenti della biblioteca continueranno nei prossimi giorni, ogni lunedì e mercoledì noi organizziamo qualcosa, soprattutto anche dei gruppi di lettura, che sono un esperimento, un laboratorio molto attivo di co-creazione della biblioteca, di co-creazione di una partecipazione a un percorso e a una riflessione che ci accomuna per quanto riguarda il sapere e la conoscenza. Bene, a questo punto lascio la parola un attimo a Guido Margheri, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. A presto. Grazie a Valeria Trevisan e alla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. Io credo che ringraziamo, perché come ringraziamo tutte le istituzioni culturali che hanno voluto e che vogliono, tutte le occasioni in cui è importante durante l'anno arricchire il programma delle iniziative politiche e culturali che stanno intorno alle scadenze istituzionali come il giorno della memoria. Le scadenze istituzionali sono importanti, sarebbe male se le istituzioni si dimenticassero di onorarle, ma certamente se non fossero accompagnate oserei dire tutto l'anno, da un lavoro culturale profondo, non avrebbero quel significato che devono avere. E quindi grazie alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta per aver organizzato non solo un momento importante per ringraziare Arnaldo Lonere, forse non solo della sua importante donazione alla città di questi quasi 700 libri, che poi mi andrò a chiedere una cosa sulla scelta di questi 700 libri, ma credo che Arnaldo Lonere vada ringraziato per la sua infaticabile opera nelle scuole e in tutte le occasioni in cui gli capita di intervenire, di promozione di una memoria viva, sottolineo memoria viva, cioè la memoria di ciò che è stato, che sono stati i crimini nazisti, di ciò che sono stati i crimini del fascismo, ma soprattutto la loro stretta connessione con quello che è stato il fenomeno delle deportazioni. E collegato con questo è infaticabile la sua opposizione a tutti i tentativi di negazionismo che in Europa si ripropongono ciclicamente, che adesso sono molto forti, a tutti i rigurgiti di gruppi che apertamente rivendicano continuità con quelle ideologie, e abbiamo avuto recentemente anche nella nostra città un esempio visibile e assai diffuso, con contenuti espliciti, ma non solo nella nostra città. Pensate che a Gorizia, che insieme a Nova Gorica si candidano insieme ad essere, quest'anno sono capitale europea della cultura, il comune ha ospitato una manifestazione dei reduci della decima mass, con tanto di commemorazione dei caduti in alcune battaglie. La situazione quindi è, mentre chi contestava la manifestazione era fuori dalle istituzioni a contestarla, considerato qualcuno che disturbava. Le dico perché questi episodi si stanno moltiplicando, perché siamo in un'epoca in cui ci sono gli assalti ai parlamenti, ci sono le guerre ovviamente, ma ci sono anche gli assalti alle sedi del più grande sindacato italiano. E sono cose che normalmente durano lo spazio di un mattino della cronaca, ma che invece, come dice ieri sera, non devono produrre indifferenza, ma devono produrre invece allarme. Non solo perché la Shoah, le deportazioni negli ultimi anni, come dice Liliana Segre, con la scomparsa dei testimoni diretti, rischiano di finire in una riga, ma perché ovviamente in questo momento i pericoli non sono dietro di noi, quindi non dobbiamo solo onorare la memoria delle vittime, ma i pericoli sono davanti a noi. Sono in parte rinnovati, ci sono nuovi problemi, ma i pericoli sono davanti a noi. E quindi la memoria viva serve a orientarci verso il presente e il futuro nel nome di quei valori fondamentali che stanno scritti nella nostra Costituzione. Arnaldo Lonere era una terza cosa per cui va ringraziato. Vedo qui l'avvocato Giovanni Salvietti Drioli, quindi sa che cosa sto per dire. È stato protagonista a nome della città come avvocato di parte civile, e non fu facile fare in modo che Bolzano si costituisse parte civile, di uno dei pochissimi processi giunti a sentenza nei confronti di uno dei criminali nazisti. È un processo uscito dall'armadio della vergogna, uno dei pochi processi che è andato fino in fondo. È vero che poi Seifert ha continuato a fare danni anche da morto, se si vede che la sua tomba è onorata quotidianamente da nostalgici di varia natura. È vero che ci sono dei problemi, ma quest'anno, nel dargli la parola, c'è qualche novità, nel senso che nell'epoca in cui i testimoni si stanno spegnendo, bisogna essere testimoni dei testimoni, partigiani dei partigiani, e quest'anno molte delle iniziative che sono state messe in piedi, una fra tutte lo spettacolo teatrale ispirato al processo Seifert sul format dell'istruttoria di Peter Weiss, ha visto nella sua elaborazione e soprattutto nella sua prima recitazione protagonisti i ragazzi delle scuole. Insieme alla Strada del Veg, insieme a Cultur, siamo riusciti a metterlo in piedi. Ovviamente Arnaldo Lohner e Bartolomeo Costantini, che è stato il PM del processo Seifert, saranno gli ospiti d'onore, ma era per dire che tutte le battaglie di Arnaldo Lohner non avrebbero senso se non ci fossero altre gambe, nuove generazioni su cui marciare e poter vivere anche oggi e domani. Se andate a vedere i 700 titoli, sono dei titoli che non sono soltanto la storia del fascismo, del nazismo, ma sono anche la storia delle opposizioni al nazismo e al fascismo, sono la storia della Shoah, ma partono anche da quelle che sono state, vedrete se leggete con attenzione questi 700 titoli, partono anche dalle cause che hanno portato a quella situazione e alla vittoria dei fascismi e dei nazismi europei, anche in termini di educazione all'odio delle giovani generazioni. Voglio dire che mentre noi parliamo qui, Arnaldo sarà contento di questo, mi sono fatto una breve ricerca su Google, ci sono tre città che in vario modo fanno riferimento a quel testo sull'educazione, e nei siti dei comuni che organizzano queste cose, anche comuni importanti, c'è citata la frase iniziale di prefazione di Arnaldo, che ammonisce a considerare l'educazione all'odio da parte dei nazisti come un monito che ci deve guidare anche oggi. Grazie Arnaldo Lohner. Sono contento di questo nostro incontro ad affrontare un tema che credo naturalmente sia di grande importanza per noi tutti. Il tema del nazifascismo, il tema dello sterminio nazista, il tema della persecuzione contro tanti popoli, in particolare della persecuzione antiebraica. Io voglio dare un contributo di conoscenza. Ricordo una frase di Primo Levi che aveva detto, parlando dei crimini nazisti: comprendere è impossibile, perché in effetti non è facile, ma conoscere è necessario. La conoscenza di quello che è avvenuto nella nostra città, nel nostro territorio altoatesino, nel nostro paese, va inserita naturalmente, non è una storia locale, va inserita nella storia del mondo, perché il lager di Bolzano rientra nella storia dello sterminio nazista, rientra nella storia del mondo. E quindi questa conoscenza è un fattore assolutamente indispensabile. Noi sappiamo che quello che è accaduto a Bolzano non è soltanto un soggiorno, una permanenza dei prigionieri, Il lager di Bolzano era stato definito dai tedeschi Durchgangslager, che vuol dire campo di transito. Doveva essere un campo di raccolta per poi mandare i prigionieri nei vari grandi campi di sterminio, ma in realtà è stato un luogo di morte, un luogo di sofferenza, dove si è ucciso, si è torturato, e uno dei grandi protagonisti, il carnefice del lager, è stato Michael Seifert, contro il quale il comune di Bolzano si è costituito parte civile. Vedo il sindaco Salghetti che a suo tempo nell'anno 2000 mi ha rilasciato la memoria, la procura, cioè a partecipare al processo contro il carnefice Seifert, e questo fa parte della storia del mondo, non è una storia locale, non è una piccola storia locale. È un contributo di conoscenza che è un dovere verso noi stessi. Noi dobbiamo sapere, non possiamo ignorare, deve far parte della nostra cultura, deve far parte del nostro sapere. È un contributo di conoscenza, ma è anche un contributo di difesa. Consentitemi di fermarmi su questo punto fondamentale. Oggi noi assistiamo a che cosa? Assistiamo alla rievocazione dei fantasmi del passato. C'è gente che parla bene del nazismo, c'è gente che parla bene del nazifascismo, la rievocazione dei fantasmi del passato. Ci sono molti e soprattutto purtroppo tanti giovani che fanno il saluto romano. Il saluto romano è il saluto fascista. Il saluto romano è una forma di celebrazione del passato, e questo non può che nascere dalla più profonda ignoranza, perché la conoscenza di quanto è avvenuto non consente di fare il saluto romano a persone che non siano accecate dall'odio, dal fanatismo. E invece viene fatto, e spesso, il saluto romano. Quindi un contributo di difesa. Il processo che è stato fatto contro Seifert, a cui ho partecipato con la procura che mi ha rilasciato il sindaco Salghetti, che saluto e che vedo qui, è stato un processo di straordinaria importanza, perché ha consentito di portare a compimento un giudizio che ha contribuito a mettere alla luce quello che è avvenuto nella nostra provincia, nel nostro territorio, nel nostro Südtirol. Il processo di Bolzano è un contributo del processo di Verona, che è stato celebrato in primo grado al Tribunale Militare di Verona contro il boia di Bolzano, poi la Corte d'Appello e poi la Corte di Cassazione a Roma. Tre gradi di giudizio che hanno confermato la condanna all'ergastolo. E c'è stato anche un importante risultato finale. Il boia, quello che è stato definito uno delle due belve, perché nel lager di Bolzano c'erano due ucraini di origine tedesca, Seifert e Otto Sain. Otto Sain non è mai stato rintracciato, non è mai stato trovato, e quando Seifert arrestato è stato interrogato e gli è stato chiesto dove era Sain, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ma la cosa che mi ha colpito molto, io ho frequentato molte scuole, non sono qui per fare l'autodescrizione della mia attività, ma ho frequentato molte scuole proprio per parlare del lager di Bolzano e di Seifert. È una cosa che mi ha colpito enormemente in alcune scuole tedesche, dei ragazzi di 16-17 anni hanno alzato il braccio e mi hanno chiesto: scusi, ma nel lager di Bolzano c'erano anche delle persone, degli altoatesini di lingua tedesca? Io sono rimasto sbalordito. Dei ragazzi del liceo, di una scuola superiore, che ignorano un dato vero, notorio, che nel lager di Bolzano non c'erano solo ebrei, non c'erano solo zingari, non c'erano solo partigiani, c'erano anche molti cittadini di lingua tedesca. E perché sono arrivati nel lager di Bolzano? È necessario fare un riferimento preciso. il commissario tirolese Hofer ha fatto un decreto, e in questo decreto ha detto, nel 1944, ha fatto un decreto e ha detto: i cittadini di lingua tedesca che non si presentano alla chiamata alle armi, perché cos'è accaduto nel 1944? Quando è caduto naturalmente il governo italiano, quando praticamente i nazisti hanno preso il potere in Italia, è accaduto che si volevano arruolare dei cittadini di lingua tedesca a combattere nella Wehrmacht, nelle SS, e molti sono fuggiti, molti non si sono presentati, e allora il commissario Hofer ha fatto un decreto e ha detto: quelli che non si sono presentati, se verranno catturati, saranno fucilati, ma comunque verranno arrestati e tradotti in carcere, verranno arrestate le loro mogli, le loro sorelle, le loro figlie. È una legge, un decreto legge che è stato varato, e proprio appunto in quello che era il lager di Bolzano sono state rinchiuse molte donne tedesche che erano parenti di quelli che non si erano presentati alla chiamata alle armi, e non si erano presentati perché nel 1944 si sapeva che i tedeschi stavano perdendo la guerra, che la Germania stava perdendo la guerra, e questi hanno cercato di salvarsi la vita, non si sono presentati, e le loro figlie, le loro madri, le loro sorelle sono finite nel lager di Bolzano e hanno dato un contributo al processo. Io ho interrogato la Niederstetter Verena Maria, una delle donne tedesche che era la moglie di uno che non si è presentato, che ha parlato, che ha raccontato, che ha detto, e ha detto che lei una notte, mentre era nel lager di Bolzano prigioniera, ha visto arrivare degli autocarri che hanno caricato 23 partigiani che erano rinchiusi in una baracca di pietra a parte nel lager di Bolzano, e ha visto gli autocarri di notte alle 4 del mattino partire. Al mattino ha raccontato la Niederstetter che ha chiesto a uno degli autisti che conosceva: ma cosa avete fatto? Ah, dice, li abbiamo portati qua, li hanno portati in realtà vicino a una caserma e li abbiamo ammazzati, e hanno uccisi tutti i 23 con un colpo di pistola alla nuca. Erano in una baracca di pietra del lager di Bolzano. La Niederstetter ce l'ha raccontato, questo episodio che poi è noto, che è stato poi ampiamente diffuso. Quindi il sapere è una difesa, perché oggi le ideologie nazifasciste stanno risorgendo. C'è gente che fa il saluto romano, molti giovani fanno il saluto romano, che è il saluto fascista, il saluto romano. Si disegnano in senso e volontà celebrativa, si disegnano le svastiche sui muri. C'è gente che riporta fatti, episodi del nazismo, del nazifascismo, con tono di glorificazione, di gloria, con entusiasmo. Quindi è un momento difficile dove la conoscenza e il sapere sono fondamentali, sono veramente fondamentali. Perché il processo Seifert, a cui ho partecipato su mandato del, come ho già detto, del sindaco Salghetti, ha dato un contributo di conoscenza profondo. Seifert è stato condannato per 11 omicidi. Per 11 omicidi, era accusato di 18, ma il processo è stato celebrato nel 2000, 55 anni dopo, perché questi fatti sono avvenuti nel 44 e nel 45, 55 anni dopo. Raccogliere le prove è stato estremamente faticoso e difficile. Il Tribunale Militare di Verona ha condannato Seifert all'ergastolo per 9 omicidi, perché è riuscito a raccogliere per 11 omicidi, è riuscito a raccogliere le prove di 11 omicidi, l'accusa era di 18, ma in realtà Seifert ha ucciso molte più persone, e come? Con crudeltà particolare, feroce. È venuta una teste, Maria Teresa Scala, che è morta a 99 anni, era una partigiana, che ha raccontato che la sua cella era stata chiusa male, allora lei ha potuto non spalancarla ma aprirla, e dalla porta della sua cella ha visto Sain, uno dei due ucraini, che teneva fermo un ragazzo, un giovane, e Seifert lo ha ammazzato ficcandogli le dita negli occhi. Queste erano le modalità di uccisione. Seifert ha ucciso un ragazzo aprendogli la pancia con dei colli di bottiglia, ha spaccato una bottiglia, a uno ha tagliato la gola, a un altro ha aperto la pancia, ha lasciato morire di fame un ragazzo di 15 anni. Io vi do questi dati molto crudeli, perché sono dati che vi dicono che cosa è accaduto nel lager di Bolzano, che non era il Durkanslager, che era appunto questo luogo di morte e di sofferenza in cui c'è stata l'uccisione, c'è stata la morte, c'è stata la ferocia nazista che si è espressa, la ferocia nazista che si è espressa. Seifert è stato appunto condannato all'ergastolo, ma c'è stata poi la fatica di raggiungerlo. Lui nel 51 prima si era nascosto, è scappato da Bolzano in aprile, con la fine poi appunto del dominio tedesco, e si è nascosto in Germania. Nel 51 è andato in Canada e nel 69 ha avuto la cittadinanza canadese dal governo canadese, addirittura aveva avuto la cittadinanza canadese ed ha combattuto davanti alla Corte Suprema per resistere all'estradizione, perché il governo italiano ha chiesto di consegnarlo, e lui si è difeso davanti alla Suprema Corte. E vi voglio raccontare una cosa canadese, che a Bolzano nel processo d'appello a un certo punto Seifert viene difeso da due avvocati venuti dal Veneto, due avvocati noti, uno era anche notoriamente fascista, e vicino a loro c'era seduto un uomo con una valigetta. Allora io all'avvocato fascista, ero l'avvocato del comune, ero lì come parte civile, chiedevo la condanna e ho detto ai giudici: guardate quest'uomo, ha la testa, ha le braccia, ha le gambe, sembra un essere umano, ma questo non è un essere umano, questo è una belva. E i giudici l'hanno condannato all'ergastolo. E vi dicevo prima appunto che c'era un signore con la valigetta seduto vicino ai due avvocati. Premetto che Seifert era un pensionato del Canada che non aveva assolutamente né mezzi economici né possibilità economiche, aveva due noti avvocati che lo difendevano. Allora uno dei due ho chiesto: ma scusa, chi è quel signore che è seduto vicino a te con la valigetta? E lui mi ha detto: è quello che mi paga, è quello che mi paga. Perché Seifert ha avuto la difesa pagata, a Roma aveva un notissimo avvocato cassazionista, è stato protetto, è stato difeso. Però nel 2008 finalmente la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di permanenza in Canada che aveva avanzato con i suoi avvocati Seifert e lo ha consegnato. E nel 2008 con un aereo atterrato a Fiumicino, con un aereo militare, ed è finito nel carcere di Santa Maria Capo Vetere, dove è morto nel 2010. Seifert ha scontato 2 anni di reclusione in una prigione italiana, è morto in prigione, e questo naturalmente per un uomo che ha ucciso nel modo che vi ho descritto numerosi degli innocenti. Badate che nel lager di Bolzano c'erano intere famiglie ebraiche, c'erano bambini di pochi anni, e poi sono partiti 12 treni dal lager di Bolzano, dalla stazione di Bolzano sono partiti 12 treni che sono andati ad Auschwitz, a Dachau, a Buchenwald, hanno raggiunto i maggiori campi di sterminio germanici, e lì i prigionieri sono stati uccisi. È partito un treno con 136 donne e bambini ebrei, non uno è sopravvissuto, non uno è sopravvissuto. Per fortuna alla liberazione, il 30 aprile il lager di Bolzano è stato consegnato alla Croce Rossa Internazionale e c'erano ancora circa 3.500 presenti che si sono salvati. Il numero esatto non lo conosciamo dei prigionieri, ma sono circa 10.000, e come dico, la maggior parte è morta, è stata trasportata nei campi di sterminio, e una parte è stata uccisa da gente come Seifert, che ripeto, ha ucciso, torturato, seviziato i prigionieri. Queste sono cose che naturalmente vanno conosciute, questo sapere va diffuso. Io ho fatto più di 100 scuole, più di 100 scuole negli due anni. Negli ultimi due anni non ho fatto nulla perché c'è stato il Covid che ha bloccato le conferenze nelle scuole, più di 100 scuole, e ho parlato nelle scuole, come vi dicevo prima, dei ragazzi di lingua tedesca nelle scuole di lingua tedesca hanno alzato il braccio e mi hanno detto appunto: ma c'erano delle persone di lingua tedesca nel lager di Bolzano? Erano assolutamente ignoranti, non sapevano nulla, non conoscevano la situazione. Nelle loro scuole evidentemente non gli è stato impartito un insegnamento, e questi sono temi di assoluta esigenza. C'è una cosa che vi vorrei leggere, che ho letto nelle scuole. Un preside di un liceo americano aveva l'abitudine all'inizio dell'anno di scrivere una lettera agli insegnanti delle scuole di questo liceo americano negli Stati Uniti, in America. E io vi voglio leggere, l'ho letta nelle scuole, la lettera che ha scritto quest'uomo. Ai professori: caro professore, sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. I miei occhi hanno visto ciò che nessun essere umano dovrebbe mai vedere: camere a gas costruite da ingegneri istruiti, bambini uccisi col veleno da medici ben informati, lattanti uccisi da infermiere provette, donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati di scuole superiori e università. Diffido dunque dall'educazione. La mia richiesta è: aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani, perché la comunicazione deve essere fatta e deve essere ampia, deve essere diffusa, deve essere importante, perché bisogna sapere. Non si può coltivare soltanto la propria mente, la propria intelligenza, deve essere coltivato anche il proprio spirito e la conoscenza di quello che il nazismo ha fatto, dei milioni di ebrei uccisi, gli zingari, eccetera. Vabbè, sappiamo quante persone è una conoscenza che fortifica, che aiuta a combattere, che aiuta a resistere. Questo è molto importante. La memoria quindi è un requisito necessario. Noi dobbiamo sapere, ma la memoria non può restare dentro di noi, non può restare un fatto depositato. La memoria va trasmessa, e la trasmissione è proprio questa. Questo nostro incontro è un modo di trasmissione della memoria, anche se io so che parlo persone preparate, eccetera. La comunicazione, l'informazione è la trasmissione della memoria. La memoria va trasmessa, deve diffondersi, e si è tentato in tutti i modi di bloccarla, si cerca ancora di bloccarla, perché questo sapere per qualcuno è pericoloso. È un sapere che rafforza, che dà contributo all'impegno, che dà contributo alla resistenza. La memoria è necessaria, ma viene combattuta, viene ostacolata. Quindi il valore del ricordo è questo. Io non voglio trattenervi più a lungo, sono disponibile alle domande. Il valore del ricordo è un sapere che ci rende migliori, che ci rende più pronti, ci rende più preparati. È un sapere che ci aiuta, perché non è finito il tempo dei massacri. Il tempo dei massacri rischia di continuare, di esserci. Non è finito l'odio razziale, non sono finiti questi sentimenti che disonorano l'uomo, ne feriscono in profondità il cuore, l'animo. E allora sappiamo, leggiamo. Io sono molto contento, c'è stato un piccolo dettaglio giorni fa, mio nipote, che vedo con piacere in questa sala, è andato dal barbiere a farsi tagliare i capelli, e il barbiere gli ha detto, perché a un certo punto lui gli ha detto che era mio nipote: ah, dice il barbiere, ma io sono andato, ho letto i libri del Fondolone, guarda, guarda che sono andato alla biblioteca di via Claudia Augusta, guarda che ho letto i libri del Fondolone. Credetemi, queste sono notizie che mi fanno bene, che mi fanno bene, perché dobbiamo sapere, il sapere è un arricchimento, il sapere rinforza la nostra capacità di resistere, di comunicare, di affrontare con dignità i pericoli, perché ci sono ancora, vi ho detto, i fantasmi del passato stanno risorgendo, combattiamoli insieme. Grazie. Dunque c'è sempre una resistenza da combattere, ogni epoca ha la sua. E beh, la parola a chi di voi vuole interloquire con Arnaldo, mi farebbe piacere, credo che farebbe piacere anche a voi, se l'avvocato Giovanni Salvetti Brioli volesse dire qualche cosa, saremo contenti, perché con tutto quello che abbiamo sentito credo che lui possa, con cognizione di causa, dire certo. Ecco il nostro già sindaco, il nostro già sindaco. Niente, vi ringrazio innanzitutto. Io devo ringraziare molto Arnaldo per tutto quello che ha fatto su questa vicenda. Ha ricordato che non è stata semplice la decisione politica, perché alcune forze erano contrarie. La cosa più semplice diceva: è passato tanto tempo, lasciamo stare, se non è, non è il caso, creiamo di nuovo. Insomma, se, appunto, non scoperchiamo, lasciamo stare. Però bisognava, c'era un obbligo, direi, morale nei confronti di quelle persone che sono morte. La loro memoria bisognava riportarla in vita, in sostanza. La loro dignità doveva essere rispettata fino in fondo, visto che l'avevano calpestata. Poi c'era anche una parte della cittadinanza che aveva aiutato queste persone, soprattutto il rione di Don Bosco, con grande generosità buttavano al di là del muro qualcosa da mangiare, raccoglievano qualche bigliettino e rischiavano la vita. Perché fare queste cose allora era molto pericoloso, c'era pronta la reazione. E comunque la delibera poi è passata in consiglio, si è un po' mediato, si è cercato di far capire, insomma, che c'erano validissimi motivi perché la città la smettesse di essere ricordata come il campo di concentramento o di transito, ma una città che ha reagito, che ha saputo anteporre degli ideali, che ha saputo dare nome a queste vittime, che ha saputo punire anche i carnefici, perché non si poteva lasciare in piedi. Ricordo quando ho assistito alle udienze in cui venivano escursi i testi, non c'era odio, non c'era odio, uno sguardo lontano, ma ricordavano con precisione delle cose orribili. Arnaldo ne ha citate, posso dire donne sventrate, erano incinte. Tutto si faceva ai tempi. Una cosa tremenda. Ricordo poi ancora il famoso muro. Condovino lo voleva buttare giù. Quella lì è stata un'altra lotta. Non volevano più tracce. E abbiamo dovuto restaurarlo, insistere. Tra l'altro era terreno loro. E quindi c'erano anche problemi giuridici un po'. Ma comunque poi alla fine anche loro hanno capito che una memoria va salvaguardata. E oggi Arnaldo sta parlando ai giovani, sta portando questa grossissima esperienza. Devo dire che il suo processo è stato di una grandissima passione, di grande levatura morale. E direi che ci ha riscattato un pochino tutti, anche quelli che erano resti, anche quelli che volevano nascondere, anche quelli che volevano tacere. Alla fine hanno ripreso anche loro la dignità, anche quello abbiamo ricostruito. Ecco, tutto così, insomma. E io credo che se dovessero succedere anche altrove queste vicende orribili, l'importante è che ci sia una reazione. L'importante è che non si lascia passare. Allora sono stati anche degli eroi che hanno messo in gioco la loro vita. Però devo ricordare anche il procuratore militare, il dottor Costantini, che veramente ha fatto di tutto, per anni e anni ha lavorato, ha scovato negli archivi, ha cercato prove che erano nascoste, ma ci ha messo un impegno incredibile e è venuto per diversi anni qui a Bolzano anche a seguire un po' le nostre vicende, perché c'era una grande partecipazione e passione anche da parte sua. Ecco, credo di aver detto fin troppo. L'importante è che quel muro vi dica ancora qualcosa e lo dica ai vostri figli, ai vostri nipoti. Non devono rimanere delle pietre, devono essere delle pietre vive che hanno valori da esprimere nel futuro. Grazie. Pensate che Bartolomeo Costantini è stato talmente toccato da questa esperienza che ha vissuto in prima fila, pur essendosi occupato anche di tanti altri processi importanti e scomodi, che ha voluto a tutti i costi iscriversi all'Ampi di Bolzano. Lui che abita a Verona e tutto il resto, perché per mantenere un legame con Bolzano partecipa sempre attivamente, sia pure online, alle nostre assemblee, e comunque venerdì sarà ospite d'onore insieme ad Arnaldo Lone di questo spettacolo di cui vi parlavo. Volevo ricordare anche che a fianco di Arnaldo Lone, come avvocato di parte civile per l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti e l'Associazione Nazionale Partigiani, c'era Gianfranco Maris, che insieme con Arnaldo ha svolto, poi c'è Canestrini, e insieme, se si leggono insieme le loro requisitorie, si ha questo senso importante di questa sentenza, perché sono requisitorie che in sostanza mettono in discussione proprio quello che hanno cercato di fare questi avvocati. Uno l'ho affrontato persino io in un processo per diffamazione nei confronti del Veneto Fronte Schinez, perché era l'avvocato di Primke, e hanno messo in discussione questa cosa che il tempo era passato, la prescrizione non era possibile. No, i crimini contro l'umanità non cadono in prescrizione, è una delle cose fondamentali di quella sentenza. E siccome quella sentenza è stata pubblicata su un quaderno, un nostro quaderno curato da Giorgio Mezzalira e Carlo Romeo, e che è un quaderno tra l'altro a disposizione per chi lo volesse, il quaderno numero 2, come diceva Lionello Bertoldi, piacerebbe che Giorgio Mezzalira dicesse qualche cosa su questa vicenda. È lì in mezzo al pubblico, si è nascosto, ma io l'ho visto. È il brutto della diretta, devi venire qui. Parlar forte, per piacere, forte. Buonasera a tutti. Guido mi chiede di ricordare. Scusa. Una ventina di anni. Guido. Fa. Chi è questo signore? Giorgio Mezzalira. Il lavoro che abbiamo fatto con Carlo. Chi è? Che riguardava la pubblicazione degli atti del processo. Diceva giustamente l'avvocato Luna quanto importanti siano state e quanto importanti siano le carte processuali per chi si occupa di storia. Ed effettivamente tutte quelle carte, quei documenti sono stati un pozzo di conoscenza, di sapere, per ricostruire una vicenda che si perdeva, si era persa sostanzialmente. Non si trovavano le pezze d'appoggio, documenti. Dell'area di Bolzano forse molti di voi lo sanno, è rimasto tra i tanti documenti che evidentemente avevano un'amministrazione molto sofisticata anche nel conteggio e nell'amministrazione di quel luogo, si è salvato solo una sorta di libro matricola dei deputati. Il resto che riguardava la gestione amministrativa, se vogliamo definirla così, del lager, non è rimasto nulla. E come è accaduto nella storia, nella ricostruzione storica dello sterminio, della Shoah, il valore delle testimonianze ha assunto un vero e proprio valore storico. Quella memoria è diventata storia, cosa che non succede spesso, perché la memoria ha uno statuto diverso dalla storia. Eppure la testimonianza viva ha permesso non solo di arrivare ad una verità giudiziaria, ma ha permesso anche alla storia di fare qualche passo in avanti, quantomeno di comprendere qual è stata la dimensione di quello che è successo. La storia ha a che fare, lo sapete, con classi, con gruppi, studia il comportamento della società, studia gli avvenimenti. Ma quegli avvenimenti, attraverso quelle voci, le voci dei testimoni, cominciavano ad avere nome e cognome e cominciavano a assumere il significato che quel momento, quel buco nero della storia doveva assumere attraverso le voci dei testimoni. E la ricostruzione che si è potuta fare attraverso il recupero di una verità giudiziaria è servita, come dicevamo e come si diceva prima, anche a conoscere un po' meglio che cos'è stato il lager a Bolzano, che significato ha avuto. Lo ricorda bene Lone, è una parte della storia del mondo. Se noi adesso potessimo visualizzare la cartina europea per vedere qual è la catena che portava al campo, al lager, al Concentrationslager e al Vernichtungslager, cioè al forno crematorio, avremmo davanti una rete immensa che partiva dal momento in cui la polizia, i fascisti e i nazisti di turno arrestavano il deportato. Arrivava alla caserma o al luogo di detenzione, passava attraverso il campo di concentramento e finiva nel campo di transito e finiva nei campi di concentramento. E questa è una rete, una ragnatela europea, è un continente intero. Se noi solo segnalassimo i punti di questa rete avremmo quasi una macchia nera intera. E tornando al lavoro che abbiamo fatto, forse inizialmente non ci siamo resi conto dell'importanza che poteva avere quella pubblicazione degli archi, anzi dobbiamo ringraziare l'avvocato Lone che li ha messi a disposizione dell'ANPI, quegli archi processuali. E resta, devo dire, un contributo che continua a girare, continua a essere letto, sfogliato questo quaderno, anche in internet può essere scaricato. Adesso non so quante migliaia di volte è stato scaricato, ma non tanto per il lavoro che abbiamo fatto, ma quanto per il valore che ha. Per il valore documentario che ha. Ecco, io credo che io non deve dire molto altro. Grazie. Bene. Vedo tantissime amiche e amici molto importanti, per cui se vogliono dire qualche cosa sono i benvenuti. E se no, ecco, Italo Ghirigato. Prego. Volevo sentire. Devi venire qui. Grazie. Ho letto recentemente che il Monumento della Vittoria è l'unico monumento fascista in Italia che è stato ricontestualizzato. L'unico monumento in Italia tra i monumenti fascisti, ovviamente, che è stato ricontestualizzato. E questo la dice lunga sulla maturazione italiana in senso antifascista. qui ovviamente si è parlato soprattutto di un lager nazista, ma nazisti, fascisti, come ricordava anche Giorgio Mezzalira, sono andati di pari passo, e come ci sono simboli nazisti, ci sono simboli fascisti che alla radice hanno lo stesso messaggio culturale, illiberale, autoritario, eccetera eccetera, insomma. Salvetti, abbiamo perso una battaglia, quella della Piazza Vittoria. Abbiamo vinto la battaglia del lager, ma abbiamo perso la battaglia di Piazza Vittoria. Un referendum che è stato bocciato, io penso, anche da tante persone democratiche, da tante persone che non c'entrano niente con una mentalità fascista, autoritaria, eccetera. Ecco, mi piacerebbe sentire cosa pensi. Vieni qua, vieni. Vieni vicino, dimmi meglio, perché io sono anche un po' sordo. Cosa volevi da me? Cosa ne pensi dei simboli, anche architettonici, dei nomi che ancora a Bolzano ci sono e che ci ricordano il fascismo? Beh, insomma, l'architettura non la possiamo demolire, questo è pacifico, perché abbiamo il Pantheon che ci ricorda i romani e il loro impero, ma se qualcuno ha qualcosa contro l'impero romano, certo non può demolire il Pantheon. Il monumento alla vittoria è lì. Del resto una vittoria c'è stata, ma diciamo tutto quello che è servito al fascismo per enfatizzare, per aumentare, per ingrandire nel periodo mussoliniano il concetto della patria ideale, e vabbè, quello noi lo respingiamo, ma non possiamo metterci ad abbattere i monumenti, che oltretutto è di scarso risultato. Ti chiedeva, sai, del nome Piazza della Vittoria, Piazza della Pace, e ha detto, sai, che è stato ricontestualizzato il monumento. In effetti era su questo la domanda, sai? Ah, era questa, non l'avevo capita bene, mi scusi perché non l'avevo capita bene, ma insomma i nomi si possono cambiare ed è giusto anche cambiarli, però bisogna pensare che la condanna del passato, data la scarsa istruzione, la scarsa informazione, il passato va fatto conoscere bene, il cittadino deve sapere, certamente il fatto, io non avevo capito perché, data l'età avanzata, non ho un udito proprio meraviglioso, diciamo che ho un udito scarso, però il concetto è questo: cambiare il nome di una strada è un fatto che può essere positivo ed accettabile, però dobbiamo anche avere la lucidità mentale per sapere che quella celebrazione della vittoria, monumento della vittoria, non vuol dire viva Mussolini o viva il fascismo, non vuol dire viva Mussolini e viva il fascismo, perché se ci fosse scritto quello mi accingerei io con una scala e un barattolo di vernice ad andare a cancellare, va bene? Bene, no, volevo solo ricordare, perché penso che sia bene che lo ricordiamo tutti insieme, fa parte della storia della città, visto che sono stato anche un, come dire, sono a conoscenza dei fatti, un testimone a conoscenza, che la storia non si è fermata, per fortuna, è una sconfitta, si è trasformata poi in una serie di passi avanti. Tanto che quando il professor Fantoni è venuto a presentare la storia della Brigata Ebraica a Bolzano la scorsa, nell'ambito di Bolzano Città della Memoria 2022 dall'Università di Nottingham, è il libro che ha vinto il premio Fiuggi Storia, l'ho portato un po' in giro per la città, e per esempio sia la contestualizzazione del monumento alla vittoria sia Piazza del Tribunale, con la scritta di Hannah Arendt che copre l'alto rilievo di Pifrader, lo ha considerato un esempio virtuoso di livello europeo. Quindi è vero che ci sono tutti questi problemi, ma è vero anche che abbiamo saputo anche inventare delle soluzioni che hanno saputo fare dei passi avanti. Lo dico perché ne abbiamo proposti degli altri. Per esempio, il 19 febbraio, che è la data in cui in Etiopia ricordano le vittime del colonialismo italiano, ci sono tutta una serie di iniziative anche in Italia, di meritevoli minoranze, ma che comunque stanno allargandosi, e noi abbiamo proposto, come sapete, lo facciamo tutti il 19 febbraio, che la colonna che ricorda le glorie dell'impero fascista sia accompagnata da un cartello dedicato alle 500.000 vittime del colonialismo fascista italiano, e non solo fascista, e insieme il parco dietro piazza, il monumento alla vittoria, si è intitolato al partigiano che è stato ospitato dall'area di Bolzano, Giorgio Malincola. E credo che questi siano atti significativi che bisogna fare con pazienza, come ricordava il sindaco, se avessimo ceduto alla pressione, perché c'era la legge Tognoli, garage, eccetera, eccetera, di chi voleva abbattere il muro lasciandone soltanto un piccolo pezzettino a futura memoria, oggi non ce l'avremo. Ci abbiamo messo tanto perché è stato vincolato solo nel 2000. Un po' tardi. Però, alla fine, la battaglia contro l'oblio è stata vinta. E quindi da questo punto di vista non bisogna mai stancarsi. Ovviamente l'oblio si ripropone sempre in forme nuove, ma direi che possiamo continuare a resistere, per usare una risposta a Italo Ghirigato. Volevo aggiungere una cosa, scusate. Subito. Non per cambiarvi, ma ecco il nostro sindaco. Un altro posto significativo che abbiamo. Parla forte per cortesia. Un posto significativo che abbiamo conservato a Bolzano, che forse alcuni di voi neppure conoscono, è in via Facinotti. Chi frequenta lì per, c'è un grande supermarket da quelle parti. E siamo riusciti a mantenere, a conservare il binario che è originale, dal quale partivano i carri merci. Quindi ricordatevi Josef Mayrnus, su uno di quelli è morto. E c'è, abbiamo un piccolo monumento con alcune valigie, mi pare, sì, infatti, sì, sì, sì. Proprio quello che tutto rimaneva, e Nudi e Crudi andavano alla morte. Anche quello è un posto che forse è bene far vedere ai giovani. Grazie. Grazie, sindaco. Ci sono anche altri luoghi della memoria nella nostra città. Cosa possiamo dire qui ai nostri gentili visitatori? Qui ci sono una serie di libri esposti, ecco, che fanno parte del fondo. Parla dei libri, allora. Di come li hai scelti. Di come hai scelto il tuo fondo. Non ho ben capito. Che libri hai scelto? No. Perché hai scelto quei libri? Io li ho scelti perché sono libri che trattano questo tema. Non è che sono tutti libri eccezionali. Ci sono tre tipi di libri, diciamo la verità. Ci sono i libri degli storici, che naturalmente sono strumenti profondissimi e appropriati per l'approfondimento. I libri degli storici, storici di valore, professori universitari, e anche libri di giovani storici. Poi molti libri sono i libri di memoria dei sopravvissuti, quelli che sono usciti dal lager di Auschwitz bambini e hanno raccontato 40 anni dopo, 30 anni dopo, la loro vicenda umana ed esistenziale. Quindi in questi libri c'è un po' il sapere dello studioso, c'è la sofferenza del prigioniero e c'è anche poi la lucidità dell'osservatore, di quello che ne parla così in maniera più rivolta a se stesso e alle sensazioni e ai sentimenti che ha sentito. Devo anche aggiungere che oggi ho portato 24 libri al fondo ed è mia intenzione, se campo, naturalmente non posso dare garanzie in proposito, data la mia età estremamente avanzata, perché io sono del 1934, se campo è mia intenzione ulteriormente integrare. E qui c'è una serie proprio di libri che potete ottenere in prestito, che vi invito a vedere e magari a scegliere qualcosa, perché questo sapere che noi ricaviamo dai libri non è un sapere puro e semplice, è un sapere che entra dentro di noi, che resta dentro di noi, perché questo passato che noi impariamo è un passato di straordinaria importanza, e nel nostro futuro non ci può essere un secondo passato di questo tipo, con milioni di persone che vengono uccise perché appartengono ad una razza, con bambini di pochi anni, addirittura di pochi mesi, che vengono inseriti nelle camere a gas, perché nel lager di Bolzano non c'erano camere a gas e forni crematori, si uccideva come faceva Seifert, si uccideva manualmente, si colpiva. Però questo futuro non si può ripetere, e questi libri sono uno strumento di grandissima utilità. E quindi il suo fondo, oltre ai 690 che qui sono regolarmente classificati, adesso è diventato 24. Di 714. Oggi ne ho, e quindi una buona 24. Notizia per la città. Io direi, non ci sono altri, che possiamo concludere qui, nel segno del concetto che non si è mai stancato di dirci Arnaldo Lona. Bisogna resistere anche oggi, grazie, e domani. Buone. Grazie a tutti e a tutti. Grazie alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta. Poi dicono che i vecchi vengono maltrattati. Non è vero. No. Dicono che i vecchi vengono maltrattati. È un tema interessante, ma questi libri, appunto, io sono 50 anni che mi raccoglie. E adesso confine. Ma sono tutti gli scritti da... Quelli che erano bambini nei lager, che raccontano loro.